Ore 8 e 15. È un centesimo. È due centesimi. È tre centesimi. 15 minuti soltanto da quando stiamo qua dentro. Da quando è iniziato il turno, non ci passa. Minuto dopo minuto, secondo dopo secondo, centesimo dopo centesimo. E non ci passa veramente. È veramente uno suicidio. Che è parola difficile. E che neanche Riccardo sa quello che significa. È vero, Riccardo? Lui l'ha imparata qua in fabbrica, tra un turno e l'altro, e la ripete. Quella stella si è diplomato. Perito meccanico. A botte pete e pernacche se l'ha pigliata. Due volte bocciato. Furtivo lo smartphone a guardare, è tornato. Speravo che non mi avesse che lo piezza e merda lo controllora. Quello che viene a prendere i tempi del lavoro, come ai tempi di suo padre. Anche se ora ci sono le videocamere, i computer, i sensori e le cimici che registrano anche i pensieri che uno si fa venire in testa per distrarsi dal lavoro. Quello però papà mio me lo raccontava sempre, che ai suoi tempi c'erano questi che venivano a prendere i tempi del lavoro, dell'attività produttiva. Baldaioni li chiamavano gli altri operai, che poi erano operai anche loro, solo che avevano fatto carriera, avevano leccato qualche culo, e li avevano messi a controllare gli altri operai, come i capò. Sì, però era una famiglia pure loro, li giustificava sempre mio padre, la buon'anima, gran lavoratore, brava persona. Ora invece lo chiamano World Class Manufacturing il sistema. L'hanno dato anche lo struzzolo giapponese, come si chiama? Yamashima, Yamashina o qualcosa del genere. La Fiat gliel'ha commissionato. Tutto deve essere preciso, misurato, contingentato. Nulla va sprecato, tutto va ottimizzato ogni minuto, ogni secondo, ogni centesimo. Che poi è lo stesso sistema che adottano la Toyota ormai da anni. Eh già. Sì, ma si poteva sempre rifiutare, dice l'amico suo Gennaro. Ah sì, Gennaro, perché? Lo poteva fare per la classe operaia. Ma qua la classe operaia giapponese, Gennaro, quella la Fiat l'ha pagata e lui l'ha fatto. Ore 8 e 17. È un centesimo. E due centesimi. E tre centesimi. E quattro pensieri di merda. Due minuti soltanto ci ha messo Riccardo Belladonna. Due minuti. E poi quello Riccardo si è documentato per bene. Si è comprato tutti i giornali. Repubblica. Il Manifesto. Il Sole 24 Ore. Per capire esattamente i termini dell'accordo e anche le ragioni della controparte, votare così con cognizione di causa. Si è fatti spiegare tutti i termini difficili dall'amico suo, Gennaro Ramaglia, quell'intellettuale della fabbrica. E infatti ha votato no a tutti i referendum e l'hanno deportato. Vabbè, deportato è parola grossa, diciamo che l'hanno trasferito, però ci hanno fatto un piacere perché l'hanno trasferita all'unità produttiva di Nola. E l'unità produttiva di Nola, guarda caso, si trova accanto al centro commerciale di un canoporno, quello progettato niente proprio di meno che dal grande Renzo Piano. Sicché Gennaro, quando fornisce l'urn, si va a fare spese. E comodo, no? Quello Gennaro è uno tosto, è uno disciplinato, è uno preciso, misurato, contingentato, uno che si è pigliato la laurea lavorando, che si è fatto tutte sciopere fuori e dentro la fabbrica, dentro e fuori. Ma l'uomo però non può fare neanche più una pisciata. Sempre questo neanche Riccardo. Solo che Riccardo non ha ancora capito perché dovevano votare no all'accordo. Lui dice, almeno così lavoriamo ancora, c'è sana speranza. Sì, vabbù, ma a che prezzo? A parte che è più cassa integrazione quella che fa CIM, che fatica. Però siamo tornati indietro di 100 anni rispetto alle conquiste della classe operaia. Nuova classe operaia, Gennaro. Ancora questa classe operaia, ma è una fissazione. E poi diciamocela tutta, ma che è una pregione. Qua dentro in fabbrica ognuno ha fatto il cazzo che gli pareva. Troppi assenteismi, troppe finte malattie, troppi scioperi. Ci voleva un po' di disciplina. Eccolo, vedi? Interviene puntuale Gennaro. I massimi gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Ma vorrei che la colpa è la nostra, noi operai che c'è sta crisi. E quindi ma che non fa buono a cinculare? Sì, ma buono, ma questi quattro sfaticati ci fa cime, giusto, no? Ore 8 e 19. È un centesimo. E due centesimi. E tre considerazioni da quattro soldi. Due minuti soltanto ci ha messo Riccardo Bernardo, due minuti. E non ci passa, che quello poi Riccardo, se ci pensa che deve stare qua, fino alle 8 di stasera, attaccato alle macchine, alla macchina, su questo sgabellino che ruota, e quando ci passa? E poi domani mattina deve venire anche un po' prima, perché ha da fare poche straordinarie, hanno fatto troppa cassa integrazione, e non sa che essere nervoso, dice che servono i soldi, ma quello che servisse veramente, io fosse un bello spaniello. Certo, a prima, la fumatella ci usciva sempre, con Gennaro e qualche altro caporeparto ammacchiato in qualche angolo della fabbrica. Adesso invece ci sono i controlli, le analisi, anche se qualche amico compiacente si trova sempre che ti avvisa, ti avverte. Perché si sa che la salute è la prima cosa, e la salute dell'operaio è la primissima cosa. È per questo che poi Riccardo si vede pure una pinnoletta. E beh, Riccardo, Sì, vabbè, ma è roba niente, è solo perché tengo un po' d'ansia. Solo che stamattina non mangio la pigliata, datasi che ieri mattina e l'altro ieri sera, ci ho fatto proprio ospezioso. Mi sono regalato una distrazioncella, perché io so quando mi fanno le analisi. Allora sono andato da un amico mio e gli ho detto: ma è roba buona, frate, vai tranquilla, frate, ha risposto lui. È purissima, è aguera, è colombiana. Sì, vabbè, dite tutti quanti così. E allora per questo non mi sono pigliata la pillola, perché avevo paura che mischiavo, facevo contrasto. Però quella era buona veramente. Eh sì, io ieri mattina mi sentivo il padrone del mondo, ma sentivo di uno, ma sentivo che volevo mangiare la fabbrica, un lavoro, o a scocca. Io seduto qua sopra, su questo sgabellino, prendevo, mi giravo, insertavo e ripetevo, prendevo, mi giravo, insertavo e ripetevo, prendevo e montavo, prendevo e montavo, prendevo e montavo, prendevo e montavo, prendevo. Mi sentivo un batterista, come che un batterista famoso, come si chiama? Quello che mi piaceva a me. Ah sì, Tullio De Piscopo. Quante volte che me lo sono visto al Pomigliano Jazz Festival d'estate, nelle sere d'agosto, a guardare le costellazioni in cielo, ormai non più visibili, da quando la Terra è stata espulsa dall'universo. Voleva fare pure un batterista. Quante cose non voleva fare. Però io me la potrei ancora imparare a suonare batteria. E mica sono così vecchi. Solo che il tempo, ora sto tempo, dove? 3,8 e 21. È un centesimo. E due pippate buone. Che quello poi Gennaro dice sempre che se qua dentro facessero veramente i controlli come si deve, non l'acqua di rosa, altro che rivoluzione russa. E se poi proibissero ogni altra forma di dipendenza, i siti porno, le scommesse, i psicofarmaci, altro che rivoluzione russa e cinese assieme, ma qua rivoluzione, Gennaro, tua rivoluzione di Nangama, ce l'hai in testa. E per fortuna che te e i tuoi compagni avete perso il referendum, la Fiat ha vinto. Perché se no mo siamo in mezzo alla vita. Almeno c'è un po' di speranza, ma poi speranza fa sempre lui. Gennaro, e poi a me che me ne importi, io me ne devo andare. Ma dove te ne vai? Tu qua devi stare insieme a noi, a fare la muffa insieme a noi, a fare sempre lo stesso preciso, misurato, contingentato, movimento, ogni preciso, misurato, contingentato giorno che Gesù Cristo manda sulla faccia della terra, e anche quell'unico giorno di festa di merda, te lo passi a dormire, di chi l'è creduto manca a dir più, sei troppo stanca. Anche se poi Riccardo si è pigliato un'altra distrazioncella, ha conosciuto una magliona, si chiama Carla, si vedono ai giardinetti, studia filosofia, non fa niente male, è una cosa platonica. Lei gli sta allargando gli orizzonti, sì, però se Rosario per non sapere, ma allargo pure. Certo, però Gennaro, quelle della Fiat l'hanno fatta cagare su te, se pensavano che pigliavano il 100% delle firme, ma per chi ci hanno pigliato? Per chi per sempre culo piglia? Ore 8 e 23. È un centesimo, è due centesimi, è tre centesimi, è quattro centesimi. Almeno un po' di tempo è passato, sempre meglio di niente, anche se sono solo centesimi. Che a stare appresso ai pensieri aiuta, è come quando stai fumato, che stai concentrato su quello che fai, su questo quadrante di merda, su questa scocca di merda, su stupidezze e merda, su questa vita tagliata, misurata, precisata, contingentata. E per fortuna che c'è il metodo del giapponese, se non sai il flusso vitale libera uscita, quanti guai che farebbe. Io però mi ho già accorto che non lo sai mica fesse, che cosa hai capito. Io devo fare fuori la fabbrica come faccio dentro la fabbrica, io devo fare fuori come faccio dentro, io devo essere preciso, misurato, contingentato. Ha ragione Marchionne, la fabbrica è una grande scuola di vita, ha ragione il giapponese, per fortuna, perché noi dobbiamo essere precisi, misurati, contingentati sul lavoro, in famiglia, nell'auto. Ehi, sempre con questo smart, eh? Ma tu guarda un po' che stupidezze e merda. Ma poi dico io. Uno è affezionato alla fabbrica, affezionato a Marchionne, affezionato al giapponese, e quello ti viene a questionare. Ma poi sempre dico io. Sempre dal nord Italia ci mandano. Ma quando diventa brigante, ma da Cile proprio. E poi dico io. Io, per tua norma e regola, sono Riccardo Belladonna, che è stu Ric? Io e te non abbiamo mai mangiato nello stesso piatto, anzi, sempre per tua norma e regola, sono il signor Riccardo Belladonna. E qua dentro ti trattano a pezza di piedi, e vai fuori, non sai mai con chi è a che fare, vai a Pomigliano, qualcuno ti fissa, fa: oi, compagno mio, che te no, guarda, che poi è uno del sistema. Anzi, lo sai che c'è di nuovo? Io con il sistema ci entro veramente, mi metto a spacciare, perché così porto qualcosa di soldi veri a casa, no? Si quattro brucchi, ma faccio un mazzo tanto. Così Rosaria sta più contenta e mi lascia un po' in pace, mi fa respirare. Anzi, lo sai che c'è di nuovo? Vai a accantonare voto, faccio feste piazza. Può darsi che vado in televisione. Solo il problema è sempre uno solo. O tempo, a Roma non sta sto tempo. Ore 8 e 25. È un centesimo. e 2 centesimi e 3 centesimi e 4 guardate smartphone. Che poi dico io, almeno tu lo sai, vuoi portare rispetto. Almeno tu, invece no, sempre la stessa precisa, misurata, contingentata, tarantella, nella nostra precisa, misurata, contingentata, casa popolare, tutto quale sti casa popolare, ma come? Sei uscito ieri sera, ma mai esci pure stasera, e non ho capito, no, non ho capito io, allora io non ho diritti, e fuori la fabbrica è come dentro la fabbrica, fuori e dentro è la stessa cosa, è tutta una fabbrica, io non la volevo fare male. Io non l'ho già fatta apposta quando l'ha generata mica mille, però mi ha da rispattare, non vuole fa male. Ah, lo so tagliato. Ore 8 e 26, è un centesimo, è 2 centesimi, è 3 centesimi, è 4 gocce di sangue, su questo pezzo di scopa, su questo grigio scheletro di un nuovo corpo di macchina che sta nascendo, sta prendendo vita, questo rosso. Queste gocce, questo sangue, questa vita. Ma come facevano a sopportare questa vita i nostri padri? Quella ragione Marchionne. Noi siamo viziati e soprattutto la mia generazione. Hanno ragione i grandi espertoni della televisione, dei mass media. E soprattutto noi del Sud Italia, non dobbiamo genere faticare. È un po' fortuna, dice sempre l'amico suo Michele. Quello fa avanti e indietro col Nord Italia perché lavora nel settore edilizio. Ma il ramo è un po' fermo adesso per via della crisi. Lui dice che non è nato per lavorare, non se ne fotte proprio, che non è quello del Nord Italia, che quello non li capisce, che stanno fissato con lavoro. E tu muri faticando, e muori, chi se ne fotte? Scuote sempre la testa perplessa, Gennaro Ramaglia, quelle rare volte che si incontrano in piazza e parlano di queste cose. Lui dice sempre che quelli del Nord e noi del Sud, con la nostra complicità si intende, ci tengono in condizione semiserviti, ancora, ci trattano da bambini. Ci riempiono di centri commerciali e ci tolgono il lavoro. Ma arriverà il giorno in cui le plebi meridionali riprenderanno in mano le redini del loro destino. Bene, Gianna, bravo! Peace! A me basta che arrivasse la fine notturna. La fine notturna. Le 8 e 27. Un centesimo. E 2 centesimi. E 3 centesimi. E 4 centesimi e 5 centesimi e studiamo che non basta sta vita che se ne furia e quello poi Riccardo c'ha solo 35 anni ma è come se ne avesse 50 perché solo vuoto stanco e vuoto si sente dentro e se mi guardassi dentro solo vuoto vorrei solo vuoto che quello poi per mio padre la fabbrica era anche una forma di promozione sociale dopo la guerra venivano dalla campagna la fabbrica era meglio. Ma faccio a faticare la vado in campagna, io povera campagna, l'hanno tutta distrutta, ammazzata di schifezza, stuprata. Questa una volta era campagna Felix, poi mi chiamano da Pomus, che vuol dire frutto. E poi per papà la fabbrica era anche una forma di promozione del sé, della propria individualità. Parlavano tra di loro, i compagni, lo sciopero, lo statuto dei lavoratori. Noi invece che siamo? Noi siamo soltanto schiuma, simsù scum. Io per esempio volevo fare il cantante nome melodico. Ma ok, Gigi D'Alessio è meglio di me. Ma sta mi voglia qui, senza morire. Poi si sa come vanno certe cose. Arrivano i figli, fine dei giochi, game over, sogni infranti. Quello è il senso di responsabilità che ci fotte, il senso di responsabilità. La vita con qualcuno è carogna. Ecco il punto, dice sempre Gennaro Ramaglia, che a quelli della tua generazione mi hanno fatto credere che potevano fare quello che volevano. E invece stanno sempre a fissarti da sti cambi di concentramento. E non faticate nemmeno. Ma arriverà il giorno in cui i proprietari di tutto il mondo finalmente si uniranno e combatteranno contro questi regimi falsamente democratici. Genna, genna. Acquietate una poco. Quella la fabbrica ha fatto campare dei figli tuoi. Tu sputi nel piatto in cui mangi. Dovresti dare la vita per impedire che chiuda. Ore 8 e 29. È un centesimo. È due. E tre. Chissà, ci pensa buono, lavoro che fa per me. Io vengo qua, bellino bellino, mi siedo sullo sgabellino, mi giro, prendo il pezzo, lo inserto e ripeto. Mi giro, prendo il pezzo, lo inserto e ripeto. Mi giro, prendo il pezzo, lo inserto e ripeto. Prendo il mondo, prendo il mondo, prendo il mondo, prendo il mondo. Ma che vuoi più dalla vita? Io ho qua tutto quello che desidero. Vado in automatico, sto appresso ai pensieri miei, mi faccio i viaggi miei, non penso a niente importante. Che quei giorni che stavo in cassa integrazione, ma se ne va persa. Stavo sempre sballato, non vorrei che lo ritornare a cadere. E poi guarda qua, vedi, queste gocce di sangue. Quella la macchina mi pare che sta prendendo vita. Ma lo sai che faccio? Mi dà un altro taglio. Oh Gesù, quella mi pare che sta prendendo colore. Quello mi pare che viva veramente. Ma lo sai che faccio? Mi do un altro taglio. E un altro taglio ancora. E ancora un altro taglio. Un altro taglio. Ancora un altro taglio. Perché così io do vita alla macchina. Creo un nuovo essere. Perché caro, ormai non c'è sai che nessuno. Nessuno sente. I compagni sono lontani. Il pomigliano è lontano. Il creatore sono lontano. Rosario è lontano. E la fabbrica ci mangia lo sangue. Perché la fabbrica è tutta la vita mia. Ore 8:30. Non ci ho chiesto.